sapevo che eri tu, no. Perché c'era voluto bambaccio e non si sentiva nemmeno la voce. Buonasera comunque. Arrivata a te. Sì, sì, l'ho visto. Ebbene, non ti piace quello lì? Prendere subito. Sente che non lo guardo più bene. Guardalo. Senta, è bello, è veramente bello. C'ha tanti colori comunque. Hai visto? C'ha il display anche grande. Cazzo. È meglio, questo è meglio di quello che abbiamo visto, che abbiamo deciso noi. È molto bello questo. Cos'è questo? Ah, te lo dico subito cos'è. Aspetta che mi metto gli occhiali. Allora, il presidente Barri, scrivi. Presidente Barri. Poi ASC. Aspetta un attimino. Dai, dai, sono qua. Sei bei, Emi. Com'è, Giomarino? Bei. Aspetta. Ecco, 63 euro, 63 più 6,90 di spedizione. È bello, veramente bello, poi anche grandetto, cazzo. No, come si chiama quello lì? Cos'è? Della Midla? No, il presidente, comunque entra in quella pagina, fa il presidente Barri, presidente Barri, fai, e poi all'avanti fai ASC, e te lo dà, vai. Ciao Marino. Ehi. Bello sì, ma non c'è omologazione dietro. Come? Non c'è omologazione attaccata. Non c'è omologazione. Ce dovrebbe avere una targhetta dietro, ma non è a... No, dovrebbe, tutti ce le hanno, Ma se si fa anche quei piccolini ce l'ha la targhetta. Evidentemente non si vede, insomma. Però, che è un bombò, Non so, ma non se ne vede. Io l'ho visto adesso, ho visto anche il retro. Me lo fa vedere anche aperto. Però no, non c'è targhetta di omologazione. Ah, c'è anche scritto, c'è anche scritto che c'è omologato, c'è anche il numero e tutto. Ce l'avrà magari sotto, ce l'avrà sotto sulla piazza, sopra tutti, ce l'avrà, ma ce l'hanno tutti la targhetta. O si è omologato, o si è omologato, deve essere per forza con la targhetta, capito? Aspetta un attimino che controllo meglio. Dai, va a ricontrollo di nuovo io. Tore, Tore. E Gian Marino. Hai visto? 63 euro costa. Va, che 12 anche 24 volte. Ma me lo dà caro a me, me lo dà. Ce ne sono parecchi di presidenti. E quello lì me lo dà caro, ma a 110 me lo dà. Ho visto, lo dà avanti io. Te la mando di nuovo la pagina completa? Mandamela di nuovo. Arrivato a dietro. Sì, aspetta che controllo. Ingrandiscetela per quello, È completa la pagina, Presidente Barri, ASC, vita transistore, CB, 40 canale, M, FM e multicolori, 12 a 24 volte, 63 euro. 6 euro di trasporto. Aspetta che guardo. Gianmarino, l'ho visto adesso. Bisogna essere omologato anche quello. Ma non lo dice. Se è omologato, mi sembra che c'è scritto, dai, guarda. E poi se dovessi fare, come si chiama? Bisogna chiedere anche quando si comprano. Ma penso di sì, perché sono 4 watt esce quell'apparecchio. Quasi tutti sono 4 watt, sono quasi tutti così adesso, 4 watt che stanno facendo. Ok, poi ragazzi è un prezzo, ce ne sono altri, ma senti, in Germania costa 83 euro. Mentre questo in Italia è 63, preciso, capito? E qui il gatto è bello, certo. E c'ha 6 o 7 colori. E c'ha, manopola non ne ha quello, c'ha la, la cosa, c'ha i tastini per andare avanti e andare indietro. No, che c'è, mi sembra che c'è, aspetta. Ma non c'è la manopola, c'è il tastino. No, c'ha la manopola, c'ha due manopole grandi, in mezzo sono due tastini. In mezzo, sotto al, al numero 40, se ti guardi. A destra c'è la manopola grossa e a sinistra c'è un'altra manopola. In mezzo ci sono due tasti che va sopra e sotto. Poi su ci sono, sulla sinistra, sopra il micro, l'attacco al microfono, ci sono altri due tastini che AM, FM e l'altro non so cosa è. Aspetta. Beh, mi lo stai sbagliando, dottore. Ci sono, c'ha due manopole grandi, c'è una a sinistra e una a destra. E due tastini in mezzo per mandare avanti i canali. Allora, le due manopole sono una il volume e l'altro lo squelch. E più c'hai due tastini in mezzo per i canali, se guardi bene, e poi c'ha AM e FM da una parte e dall'altro cosa, un altro tastino che c'ha. Giusto, infatti è così, va? Invece per la manopola basta abbassare i tastini e arriva a 40, è bello quell'apparecchio, E questo l'ho preso, me l'ho preso io, E bello, poi per il prezzo che costa? Cazzo, 63 euro, ma può fare 6 euro, aspetta. 6 euro, 90 di spedizione, cazzo. È bello sto. Prendilo. E vede, cosa, fammi sapere. Adesso me lo controllo bene. Prima di prendere me lo controllo bene. Vedo un po', leggo tutta la questione, capito? E vediamo un po'. Fammi già bene, così almeno guardo e vediamo. D'accordo, adesso guardo bene, là. Io invece sono dovuto scendere stamattina per l'attenda. Oh, sceso, se me cosa stanno... Che adesso me ne portano l'altra e ci portano via questa. Hai sbagliato Eddie, no? Hai sbagliato io, no? Ho sbagliato loro. Infatti, che... raga, mi la misura giusta, chi dà ragione? Cazzo, non gridi, là. Oh, no, la misura già è giusta. E cosa, che hanno sbagliato Eddie, segnando il numero. Ah, ecco. Aspetta un secondo, ma mica Tauro e so, si trova mica Tauro in Italia. Com'è Giomarino? Capito, Tore? Ehi, Giomarino. Controllando lo sai? Sì, ce l'ho nel computer, ce l'ho. Mica Tauro. Dov'è mica Tauro? In Sicilia? Oh, veramente non lo uso con il mappa. Dovrebbe essere omologato questo, senz'altro. Poi dietro te lo fa vedere, ti fa vedere in frontale e basta. Anche quelli che c'è la Germania, no? Che c'erano 4-5 tutti insieme. Anche lì non te lo dà il retro, capito? No, l'ho visto dietro, non c'è una targhetta. Meno che non ce l'ha da qualche parte, boh. Ma tutti ce l'hanno gli apparecchi, tutti quanti. La targhetta devono averla, capito? Se no, qualsiasi apparecchio tu compri c'è sempre la targhetta, ricordati bene. Lo so, però aspetta che sto guardando in un altro posto a vedere se riesco a trovare. In Germania ci sono, tu. In Germania costano più di più, mi sembra, 83, 77 mi sembra. Guarda che dietro l'altra pagina c'è la Germania, capito? In Germania ce ne sono un saccaccio. E ce ne sono da 300, 230, 240, quegli altri. No, io parlo di questi, di questi 40 canali AM e FM, capito? Non cerchiamo quelli che hanno un saccaccio di canali, eccetera, eccetera. Io sto parlando di questo tipo. Capito? Sto parlando di questo tipo e che c'è in Germania, ci sono a Berlino, ce ne sono, mi sembra 10 o 12, tutto uniti dall'altro, e sono da 70, 78, 3, 83, non di più, capito? Massimo 85. Sì, no, quello sì, no, quello da... No, ma ti sto dicendo che dico cogioli, ce ne sono parecchi, ce ne sono, ce ne costano parecchi. Che sono? Che sono con altri così aggiunte e tutto, ma costano molto di più. Ma tra giusto non ce n'è, no, forse la Germania magari costa di più perché è più lontano, ma in Italia, certo, 63 euro cosa vuoi prendete? Più 60 euro di più 6 euro di trasporto, via, 70, certo, una cazzata, costa una cazzata, ed è bello. Poi non è piccolo questo, è abbastanza grandetto. Sì, no? Che perché è cosa che non si sa se è omologato in Italia, eh beh, ma tanto per dire, no, si può contattare, no, questa ditta, no, se tu lo sai fare, io non lo so fare, se no l'avrei mandato l'email a vedere un po' se è omologato, se c'è la targhetta con la CE, se è omologato con la targhetta CE, io lo puoi scrivere, se me ne mandano l'email, ci tornerà la risposta, sì che siamo sicuri che è omologato quello lì. Bisogna vedere, ecco, guarda vedere come c'è l'altro per lei. Sì che c'è, guarda, a fianco c'è tutto, dai. La pagina a sinistra, a destra c'è tutto. C'è tutto. Sì, ma non c'ho il coso per entrare io. C'è il coso mia figlia e a me non mi fa entrare come cliente, capito? Ah, cazzo. Boh. Come facciamo allora a sapere tutto? Sto cercando su Amazon a vedere se ci sono anche qua. Vedo un po', dai. Io sono squalo. E siamo qui, aspetta un attimino, sta entrando su. Perché sei basso? Cosa sono? Ah, sono. Come fai di basso? Guarda a vedere. Non so perché ero lontano. Ah, come questo. No. Qua è bene. No, mi stavo guardando questo apparato che mi ha detto Gio Maria, presidente, e mi dice tante cose, però non mi dice se è omologato o no, non me lo dice. C'è tutto scritto, filtri contro filtri, cambio colore, è tutto grande, però non mi dice se è omologato. È omologato nelle Unione Europea? Non mi dici tanta cosa, però non mi dici nessuno che mi devi dire. Hai scaricato. No, infatti, siete facile, non ti dice se è omologato o no, si parla con un muro che fa bambene, si dice, però se è omologato della piscina non te lo dice. Mi dà tante cose, però no, non te lo dice dell'Unione Europea, ti dice, però se mi accaduce non lo so. Perché no, ma sto prendendo non è da fare, non c'è nulla. No, ci deve essere una targhetta dietro attaccata, hai compreso? Come c'è nell'Ite che nel Midland, ci deve essere una targhetta dietro, ma non ha giù visto. Se ti apparati da dietro non mi fanno vedere solo il frontalino e sopra, poi basta. Ma io ho già visto pure un cosa, l'ho visto ai fianchi, da sopra, e cosa, e fatto un metodo del coso, tutto nero sopra, e cosa dove scalda dietro. Quello lì si fa vedere, però dietro una targhettina non ce n'è. Ma tra un paio non lo trovo in piazza, sei un barattino. Sì, grazie. Sopra da la cosa di cosa verrà dato cosa tu metti che cosa dentro dentro vinci quello di cosa quello di Tomino sì. Ehi, al 120 perché si fa 115 adesso chi è che l'ha preso? No, cosa Antonello di da Fusaro 100 euro però non so come si è fatto questo apparato oh. Allora Tonino ha detto che io sto apparato parti da partire da 80 euro fino ad arrivare a 200 euro sì, sì. Bisogna avere il gaffero no, ho termino le 40 canali omologato c'è cioè, omologato tutti bellissimo quello che ho fatto 200 euro certo. Ma dopo quanto è già stato? Sono già stato 64 in tutta la mira di nuovo nuovo. Certo. Quello come quelli vici lì. Presente ce l'ha. Tuttale è più caro. Secondo. Quindi la città lo compresso un po' più chiaro. Che fai la produttore con il motore. Il fatto che lì io mi ha fatto vedere questo 63 euro più 6 euro e 99 di spedizione 63 euro però ha detto di presidente no, non però ricordo il numero di omologazione non ha giù visto già non l'ho visto dietro però dietro non ce n'è questo AM però è davvero forse ce l'ha sotto capito perché se tu guardi dietro mi sembra che c'ha delle alette di raffreddamento sotto è il pezzo dell'attacco del TL capito buonasera signor Macchini buonasera signor Figaro buonasera sì c'ha le alette di raffreddamento dietro l'ho visto come ciao dove l'hanno messo la quattro amato mi dice tutto di quello che c'ha filtro contro filtro e cose varie c'è tanta cosa però di cose che è fatto nell'Unione Europea però di cose no, non me ne dice la targhetta ci deve essere tutti gli apparecchi tutti quando nascono ci deve essere senz'altro in tutti gli apparecchi c'è la targhetta sempre capito? C'è sempre la targhetta perché hanno un numero c'hanno. Sì, infatti, quello devono avere un numero. No, e dopo l'hanno messo loro, perché dietro non ce n'è. Ce l'avrà sotto, dai. Ce l'avrà sotto sulla piastra. Di qualche posto ce l'ha, perché ce l'hanno tutti la targhetta. O siamo logati, no, ce l'hanno tutti, capito? Tutti i baracchini ce l'hanno, capito? Infatti. Quello è. Bisogna vederlo come si è adatto a me, no? Ma non mi fa vedere altro, mi dice tutto quanto, quello che c'ha, 12, 24, mi dice, poi la AMFM, la DCP, base, display, tanti colori, ti dà, è un sacco di cose ti dà. Microfono con funzione di cambio e tutto si dà eia è bello ma perché me l'ha visto c'è il display abbastanza grande quasi quanto è tutto il frontalino è bello cazzo dai insomma apparecchietto è bello bisogna mandare un'idea mandando un'idea ci dico ti faccio strano che non si veda perché ne ho visto altri che non si vedono le targhette perché magari forse ce la vanno piccoline in qualche parte o qualche altra parte oppure sotto capito posso averlo sotto anche Mario, non lo so questo no non me ne dice dice che dell'Unione Europea è buono no è un'autica allora che cazzo e tu non ci riesci a mandare di me ma chi? No io non nulla di nulla ho visto io sono pronto in quel campo ah Io ho studiato odontologia, ti puoi immaginare, non ci riesco io, madre mia. Ma ci sarà qualcuno che ci fa questa cortesia a chiedere, no? A mandare un email, chiedere, si sa subito se c'è la targhetta con l'acce o no. Non è traffico. E tu dice che non lo fa entrare perché c'ha la figlia, non so, se entra in internet può entrare anche a mandare le email, capito? È chiaro, Tore. Io fai queste email, vediamo un po', qualcosa ne c'è pure. Non in Bosuba che non mi lascio entrare con la passo, non mi lascio entrare, io non ce l'ho la passo, se l'ha fatta a me figliola e a me mi dice negativo. Ah, c'è la tua figlia, tu no. Se ordini qualche cosa, come fai tu a ordinarlo allora, il nome tuo? Perché molte volte entro nel sottocoso, entro, e allora mi fa entrare, però se devo fare qualche cosa, molte volte faccio qualche ordine di coso e mi dici tu da dove va, allora me lo fa mia figlia dall'Inghilterra. E beh, l'altra tua figlia, no, non ce l'ha, non puoi dire lì. D'altra, è negata peggio di me. E allora, già siamo andato bene, capito? Vabbè, noi siamo da certa età e la mente e le protese di tutto non sono pronti, però cazzo, ma i giovani cazzo la fanno. Marisa, mi stavo guardando un po' la macchina a vedere se c'è qualche cosa, però non ce l'ho qua. Come fai a vedere sul retro? Io non ci riesco a farlo vedere sul retro. So. Perché ho visto in altri cosi, l'ho visto e mi fa vedere sia davanti che dietro, mi fa vedere. Ce ne sono parecchi, ce ne sono. E quindi ma vedo anche la parte di dietro, però la parte di dietro c'è soltanto l'attacco dell'antenna e il coso del microfono esterno, ma del microfono dell'altoparlante esterno attaccato, e più il coso per come si chiama, il coso per ce l'hanno tutti, ce l'hanno tutti, magari, molto strano, adesso ci guardo io se riesco a trovarlo in qualche posto, va. E mi sono sentito, ma io lo vedo un po', e dietro non è difficile vedere, ma cos'è, anche AM e FM, di morire. Eia, c'ha AM e FM, sì, c'ha AM e FM. Cammina 12 a 24 volte anche. È bello, ti succede che è bello, ma per quel prezzo si può prendere occhi chiusi. Se è omologato che ha questa targhetta si può prendere occhi chiusi, perché è bellissimo. E ci sono anche a Berlino costano sulle 80, 85, 90, queste qua, questa in Italia, 63 euro. E sono precisi quelli di Berlino, capito? E che marca è? No, è il presidente Barri, capito? Dove l'hai trovato? Su Amazon o su YouTube? Adesso indietro non lo so, adesso provo a entrare su quelli di della Germania, vedo un po' se me lo danno la parte esterna e vediamo un po'. Ma che fai vedere un po'? Interessante la cosa. Ma chi? C'ha anche il Roger Pitt, display LCD, Master Filtro AML, NP, tasto funzione S, Pitti, funzione Roger Pitt, presidente AM, interruttore, selezionato, canale, programma, stop, sempre. No, va un po' di cosa, grazie a noi. Ma che sei così fatto? Lontano dal microfono stai parlando, che cosa? Tu devo aumentare il volume per sentirti. succede se se ne sta andando la batteria. E allora se ne è già andata, ok, se sta andando male. Sì, hai detto un aumento di cose, è tutto aumentato. Andare, guarda a vedere. Guarda a vedere che è basso, sempre, non è come prima. Non scendo basso ancora. Adesso sarebbe tutto bene. Mi sono capitinato a 5 minuti da 5 centimetri da microfono. Vedi che è tutto bene. Sì, ma sta andando la batteria, deve essere. E comprare nuova questa batteria, non sai a cambiare una batteria. Dammi un tempo di compararla. Vabbè, da un po' carico, mettimi il braccio. No. Andiamo e andiamo, dai dai. E Marina, cosa stasera? Oh, guarda che l'ho inteso più, già so che una dice, senti in dillo. Ma la tua fattura di antenna, non so cosa dovevo fare. Ma se non ha ciappato tempo buono, cosa fatti? Oh, già. No, la deve togliere perché devo piantare la veranda, deve coprire il terrazzo. Deve coprire? Ah, ce devi fare la capitulia, ce devi fare. Eia, devi fare la capitulia. Ma deve agitare un tempo buono, deve agitare. Anche tanto ancora non si può fare nulla. Agitarà, non lo so. Ma tutto. Devo mettere un po' più della terra. E fare una veranda. E quindi devi sollevare parecchio l'antenna, deve sollevare. Deve sollevare sì, perché se no mi blocca. Sto con la gabbia l'antenna. Capito? Sì, c'è un po' calore, vivo un tubo da 6 metri, vivo. Buon amore, non ci vai a crescere. Ma con ci meri buoni. E vedi come ti cresci. Ma se vuoi bisogna fare la strappa. Quando mi ha spiegato per superare poi la cosa, la montovana. E dunque 40-50 più di montovana per la vicina, e dunque devi superare la provincia. E allora venivo di dubbo, devi prendere un bel dubbo rongo, devi pulire. Senz'altro, non so come sia la questione in Giulia. Se con il tubo pure la bagnata della capitulia, non lo so. Ma che la pinti? Se si fatto pinti lì, entra allora delle zombie. Ma oggi la trova niente. Oggi le bagnate la trova niente. Sa che dai il turno. Oh, le domeniche sta facendo. No, le domeniche le ha già fatte. Oh, la plastica. Ah, la plastica è un cambio di settore da andare. La plastica mi sono stata facendo. Ehi, se si può tenere un cambio allora. Devi stare attento, come ti poni anche. E se non so come si sia la questione della plastica. Non lo so. Ovviamente si passa lì alla zona, la carica si fa tutto l'autista del vaso. Quello è laterale, ma è laterale sì, ma è tutti i laterali non fisso. È laterale sta questa cosa qua, sta lucina, è forza, pure in giusta. Sì, già lo so, passa anche qua, passa. Ma lì è qua. Ma lì non si mette a qualcosa da dietro. Ehi, Marina è attaccata da ridi. Ui, ui, aspetta. Ehi, vedi che così. Ma in campagna eri oggi, signor Bacchi? Ehi, sono in campagna stamattina, facendo stasera. Però stasera c'è freddo. No, te l'hai stato prima. Dopo un pochino. Era freddo, era. Tempo brutto, te. E poi non fa nulla. Se andiamo bene andiamo? Male, male stiamo andando, male, male, la coltivazione la cambia la pallista. Male. perché già le prove non sono uscite. Del coso, del tempo, che quest'acqua se le sta facendo marcire, così è. È una cosa, con questo tempo non si può fare più nulla. In campagna è indovinello, se va bene, non come le fave sono andato di lusso. Le patate stavano andando benissimo, adesso ha preso la malattia, i pomodori sono a mano, adesso le devo ripiantare. Mettendo dentro la serra sono andati bene. No, quelli della serra, sì, della serra ne ho tre pirati, che ne c'è l'acqua. Quelli stanno andando bene, perché io lì sto trovando. Tu che si fa del gallo? Apri! E devi chi devi fare? A cosa devi fare? Andare. Ma che si andava a fare del gallo, ti si maturano tutte in una volta, così è. È chiaro. Pensare che quando c'è il sole, magari con la terra aperta, le porte aperte, le parodie aperte, arriviamo intorno a 40 gradi. Cazzo, non da giù, 40 gradi. È caldo, sì, dentro la terra si caldo. Oggi, io posso, non si muove con il piede rosso, ma penso che oggi c'è freddo. Vedi, si è rientrato signor Giovaria. Sto guardando, non me lo sta dando, no. L'ho visto dietro, non c'è scritto niente. Ma forse è dietro, sotto, c'era l'omologazione, capito? Sì. Perché sopra c'è DC l'attacco delle cuffie. E cose dell'antenna, l'ambulocazione si vede che ce l'ha sotto, perché c'erano tutti la targhetta, capito? È impossibile che diano l'apparecchio senza targhetta, capito? Infatti se non ce l'ha sotto, anche sotto non te lo fate vedere. E infatti sotto te lo fa vedere, devo guardare su altri pure, perché ce l'ha solo la barca, è del presidente Lincoln, è la casa del presidente Lincoln. Quella lì è la casa di chi fa quegli apparecchi, ed è una casa abbastanza seria, Sì, quello sì, infatti quello sì. No, fa vedere altro. C'è anche il Roger Bip, c'è. Come? E c'è anche il Roger Bip, filtro contro filtro. Di cosa va? Infatti lo so, l'hanno stato leggendo. No, è l'apparecchio che si può prendere, per quel prezzo, se c'è la targhetta si può prendere a occhi chiusi, dai, 60 euro, 70 euro, ma cosa prendo 70 euro? in Germania si costa 80, 80, 90, 110 ce ne sono a Berlino. Poi non ne parliamo di cose, il Regno Unito, però il Regno Unito è peggio la farmacia, i trasporti fa pagare molto, 20, 28. È un po' caro. Ma questo qui bisogna vedere un po' se c'è l'omologazione, se poi sono con la fine omologati, non c'è niente. Perché non è facile più senza omologazioni, eh. Certo, non è possibile che fanno apparecchi che non sono omologati, capito? Non credo, assolutamente. La targhetta ci dovrebbe avere tutti quanti, o è omologato o non è omologato. Ci deve essere per forza la targhetta, capito? Se non c'è la targhetta c'è scritto direttamente sulla carrozzeria, capito? Chiediamo a qualcuno, dai. Anzi, se sta il telefono a Luca, me lo faccio guardare da Luca, lui già può entrare con il mio, dai. Allora. Sì, io mi sono allontanato un attimino, il Sugani ha fatto la coperta. Addirittura, hai sede, ma chi ha fatto danno? Tabacchino, se scendi! Che bimbi si legge, ma lui no! Tabacchino, non stai uscendo! Non si sente, no! Attento, signor Tabacchino! Parla forte, non ci sentiamo! Ma basso sono io! Ah? Sono basso! No, è normale, come sempre sto! A voglia! O sono le orecchie di Bacchisio, o è l'apparecchio sordo! Oh! Ogni tanto gli salta qualche cosa quell'apparecchio di Bacchisio! Ma chi va dalla pensione? Ah, giusto, vivo nel monogatto proprio vivo! Ma... inutile, vado a settentare l'apparecchio da bordo da partito. Vedi, il rompiscatole che si fa fare, ragazzi. Io questi che ho io funzionano perfettamente. Sono buonissimo ancora. Però quelle macchine evidentemente è male messo veramente. Adesso vedo un po'. Questo se c'è quella targhetta omologata io lo prendo, però devo sapere se è omologato oppure no, capito? Adesso chiamo Luca e mi faccio mandare in mail da lui a vedere un po'. Ma non c'è neanche il numero di telefono, come fare per saperlo? A che? No, non ce n'è il numero di telefono. Ah, stavo cercando anch'io, no, non ce n'è, no. Lo stavo cercando anch'io. No, non ce n'è il numero, se no l'avrei telefonato subito, prima di adesso l'avrei telefonato, perché tutta la sera sono inciappugliato al computer oggi, e sempre guardato questi tipi, e tanti tipi l'avevo guardato, ma l'unico che mi piace è questo qua. Vabbè, sono scemo. Ehi, è tutto male, sono andato. Tutta ciocca mi sono mandato. Magari a candidare però, ma chi? Guardati la campagna, voglio il vostro. E tutto a reggere. Ci attivate il concime. Ehi, allora. Andate bene, però. Capito, tutto com'è. Oggi compreso io, oggi. Ma chi, bisogna punire lo scaffale. Ehi, lo scaffale. Ehi, ma... quello piccolino mi prendo adesso. Sì, andate. Io devo agitare. Come c'ho i deneros, devo anch'io prendere. Oh, quando c'ho i deneros. Senti, mi già becano i biglietti. Dai, aspettiamo magari. Quando siamo sicuri della questione, ne ordiniamo tre e ti faranno anche lo sconto, dai. Ci fa vedere di lui, non vi comprendo tutti e due. Se siete sempre motivati uno con l'altro. Ma chi, quando mai? Ma sì, ma non è che sia sordo quell'apparecchio, no? L'ho detto, questo qua è invalido. Ho detto, aspettiamo, quando siamo pronti ce lo prendiamo tutti e tre, lo diamo tre e ci fare uno sconto. Prendi tre e paghi due. Sicuro. Prendi tre e paghi quattro. Bacchi, dai. Io che ci sta saltando, ce li giochiamo, dai, Bacchi. Questo non devo prendere, infatti io lo sto guardando. Quello piccolino da mettere in macchina, quella Midland. Ma questo è completo, ma se tu lo vedi, sembra un apparecchio grande. Senta, è digitale, ma chi è bello. Sì, è digitale anche quello piccolino per macchina, capito? È digitale anche quello di 40 canali, AMB. Ma di roba, che misure sono là, sto io, sapeva, 12 per 10 per 2 metri di altezza. Che bello, vedi un po' tu se ti piace, prendi solo. No, perché lo puoi usare anche in macchina, era lo metti in tasca e lo porti in macchina. Ehi, in macchina, a mettere in macchina parecchio sarà un po' difficile saranno, vabbè. Certo, tu la usi più di me la macchina, io la macchina la uso poco e niente, per cui lo... Da qua a campagna, non ce l'ho in campagna, così che non la metto in macchina. Tu magari mettilo, va tutto bene. Tutto bene, bene so. Si può dire che è come quello che vuoi prendere tu, solo che è Midland. È la stessa cosa come quello lì c'ha. Ma guarda tu lì, e lo finiamo allora, non cresce un problema. Due le devo prendere. Due mi riprendo. Perché l'hai visto? Uno non funziona, l'altro non mi vede il mal di testa e non funziona, vedi subito a capare un altro. Una mal di pace, l'altra mal di testa, ma chi? Il Midland, ragazzi, è il display che ci racconta, che sta bene il display, tu vedi i numeri grandi, è spassoso, è tutto altro discorso. Quelli senza quel numero del canale, basta. Oh, cazzo, non mi piace questi apparecchi qui, sì. Piazzi. No, che Midland, sento io. C'è il display, ce l'ha 6 cm lungo, ho visto il dato uno, con 6 cm di display, c'ha il tasto, 4 tasti, questo, e poi Mickey Mighty Game e il volume. Già l'ho visto, non mi piace, a me non mi piace, però... A chi piace, a chi non piace, per cui non mi sono mai piaciuti. Magari prima va bene, ma adesso con questi nuovi che sono usciti adesso, è più grande i display, più grandi sono i numeri, è meglio. Siamo diventati un po' più puro. A me quando c'è il display grande, poi li vedi tranquillo senza occhiali. Io sto a mettere anche i canni occhiali, con le lenti belli forti, però so. Sì, tanto mi ritrovo buoni per forza io. Faccio un poco. Ehi, a leggere anch'io. Adesso il computer, prima leggevo bene, adesso il computer. Ma da avvicino così magari, quelle piccole non riesco a leggere, allora devo per forza mettermi gli occhiali, capito? Lo saranno ora. Purtroppo stanno andando e peggiorando, per cui la vecchiaia carogna. Sta andando tutto male, ma chi? Che cosa vuoi fare? La vecchiaia. Ehi, la vecchiaia, la vecchiaia. Dimmi, su quelle cose l'hai trovato su questo, su eBay o su... Come diciamo voi? Su eBay e ma chi? Su eBay e poi ci guardo. dice quando. Bene. Allora, il meritere è arrivata. Va bene. Gian Maria, ci sentiamo. Grazie della chiacchierata, anche per togliere con le patatine. Poi se ti vuoi far vedere, ti fatti vedere, discutiamo anche in verticale. E così anche Gian Maria. Mi fate un salto con Gian Maria domani con Tore, e così vedi la mia azienda. E può darci pure, ci via. Può darci pure, e basta farci vedere Tore. Se possiamo fare anche una scappatina, possiamo anche farlo, sempre che non scenda l'aria. Ah, non è piove, non è, se piove già siamo al coperto. E ci metto dentro la serra e chiudo. Ah, te, che io vivo per il bar, Eva. Hai sentito, Antonio? Ehi, andava bene. Ah, guarda beh, se riesco a scendere presto dal medico domani mattina. Guarda a vedere, se riesco a scendere presto ci facciamo una scappata. Senta bene meno, buona quando arriva il cancello che chiudo il campo. Ti stavo dicendo, se riesco a scendere presto dal medico ci facciamo una scappata. Ehi, ha detto, benissimo, detto, quando arriva il cancello suona che chiudo i cani e ciò ti musicano. Poi da forra poi a Darigio mi so. Non mi parli di, anche se no ti farò tutto che faccio. Secondo che ora è, e fatti vedere, fa uno squillo, so, ci facciamo la scappata, tanto ammazzare un'oretta, là. Devo salire dal medico, devo salire, bisogna vedere che erano in faro. Ehi, vabbè, se è possibile, mi fai uno squillo, capisci? Sì, ok, là. E facciamo così, ti do uno squillo se scendo presto, però pazienza, no, facciamo un altro giorno. D'accordo, salti al Bacchì, allora, ciao Bacchì, ti raccomando, se vuoi la cassetta, te la portiamo noi la cassetta per i maracchini e lo sottoriamo nella serra a fare così, domani. Ciao Bacchì, buonasera, saluto di casa, ci sentiamo. Va bene, ce l'ho anch'io, chiudo, dai, ci sentiamo domani questo mese, dai, buon proseguimento, saluto di casa, grazie alla cacchiata, ok? Ok, Gian Maria, ci sentiamo domani, là, se coincide, va bene. Ciao Gian Maria. Ciao Gian Maria, ciao Tore, buonanotte. Ok, ciao Bacchì. Ok, ciao Bacchì, ci sentiamo domani, ciao ciao.